Lupo Nair, Summersburgo. Summersburgo, questo è il secondo episodio di questo spin-off estivo di Lupo Nair, con la sola voce di Vanni, perché Flammy è lontano, lontanissimo, cioè comunque sarà a farsi i cazzi suoi al mare, però ci ha lasciato una traccia vocale che abbiamo ascoltato all'inizio, e ora abbiamo ascoltato invece il brano, come madonna si intitolava questo brano, Systems of Love di Orthotask. Sarebbe scritto Orthotasche, però sono andato a cercare come si pronuncia, perché chiaramente è impossibile altrimenti. Orthotask, che è un tipo di San Pietroburgo, Florida, USA, che ha da poco pubblicato un album intitolato Dispatches from Solitude. Da quest'album abbiamo ascoltato il brano Systems of Love. E ora tutt'altro, passiamo a tutt'altro con gli Spell. Gli Spell sono una band di doom rock psichedelico che viene da Canada, da Vancouver, e adesso hanno da poco pubblicato uno split con i Poltergeist, dove loro ci propongono questa cover di The Devil's Blood intitolata A Waxing Moon Over Babylon. Mi sono accorto adesso che è una cover di The Devil's Blood, quindi l'ascoltiamo, niente, basta, ciao. We'll be right back. Lupo on Air, Summersburgo. Alan Vega è morto nel 2016, ma questo non gli impedisce di continuare a pubblicare album della Madonna, tipo quest'ultimo Insurrection, veramente hardcore, cioè molto pesante, che sembra industrial, tipo pe anche peggio di quello che proporrebbe Dive. Da questo album abbiamo ascoltato il brano Cyanide Soul, è una roba vecchia naturalmente, dicono che risale a, beh, prima che morisse, direi sicuramente, Alan Vega. Ora invece passiamo ad altro, chiaramente, con From Grey, che è una band francese di Nantes che fa folk, possiamo semplicemente chiamarla folk. Un tempo si chiamavano Ronan Kay, si può fregare qualcosa? Non ci frega, non ci frega. Adesso hanno pubblicato un album intitolato To Dust, e da quest'album ascoltiamo il brano di chiusura che è Dead for Halloween. Loro sono i From Grey. Anymore, they got guns and zombies. They won't lose. I won't fight. I'll just lock all the windows and doors. I'll be dead for Halloween. Climbing the stairs to your room. The window shows a full blue moon. Mom and Dad will be back soon. Hiding in your closet at night. Watching you sleeping tight. Waiting for the morning light. Coming from under your bed. The octopus tentacles are spread. Sooner or later you're dead. Ground when they drown the little town. Lupo on Air, Summer Spurgo. La toccano pianissimo i Wound Bear da New Bedford, Massachusetts, USA. È un gruppo che fa un casino della Madonna tra sludge, metal estremo e power violence. Questo è un brano tratto dal loro ultimo album Human Outline dell'anno scorso, però tuttora ancora praticabile, ancora caldo, diciamo. Il brano che abbiamo ascoltato era Manslaughter, breve ma intenso. Molto, molto più lunga invece è la saga dei satanisti di Macerata, una piaga che affligge la cittadina marchigiana, qui nostra vicina, da dove tra l'altro provengono Papi Teodori y los Mamacitos de la Cumbia, che è un ensemble transnazionale, transcontinentale, che propone cumbia nelle sue varie declinazioni, preferibilmente quelle più deviate, nonché altre deviazioni che non hanno nulla a che vedere con la cumbia. Ora, dato che c'è questo problema che, dei satanisti che scendono dal Monte Droga e vanno a spacciare ai giardini di Diaz, Papi Teodori e i suoi, che sono molto sensibili a questo dramma, hanno chiesto gentilmente a una intelligenza artificiale se riuscisse a creare una preghiera neomelodica per sconfiggerli. E quindi andiamo ad ascoltare questo brano che è uscito fuori, c'è anche un videoclip, ma voi non ne potete godere in questo momento, ma andatelo a cercare. Il brano si chiama Ai Padre Pio. Loro sono Papi Teodori y los Mamacitos de la Cumbia. Padre Pio ammazza sti satanisti, i satanisti di Macerata. Non ne posso più, non ce la faccio più. M'hanno rovinato la città. Padre Pio si lo meglio santo. Padre Pio, per favore, facci sto piacere. Trova i satanisti e portali dall'inferno l'infiere. Scrivono sempre, porta Pio, Pio, su sei di pace da sé. Ai Padre Pio, ai Padre Pio, ora in cielo che penserai? Ai Padre Pio, ai Padre Pio, son sicuro che mi perdonerai. Voglio venire lassù, lassù, lassù insieme a Padre Pio. Manda i satanisti laggiù, laggiù, insieme a Porco Pio, Porco Pio. Ai Padre Pio, ai Padre Pio, ora in cielo che penserai? Ai Padre Pio, ai Padre Pio, son sicuro che mi perdonerai. Macerata regna, viva la fregna. Macerata regna e viva la fregna. Lupo Nero, Summer Spurgo. Just separate it from the rest. simpaticissima discoteca industrial IBM, questa che ci viene proposta da Mutant. Mutant è un progetto solista, naturalmente, perché è uno solo, che viene da San Antonio, Texas. Lui com'è che si chiama nella realtà? Joseph Anger. Peppe Rabbia, The Mutant, ha da poco pubblicato un album intitolato Electronic Body Horror. Da questo album abbiamo ascoltato il brano Pretty Flash. Invece questo è un altro disastro che viene dal mondo. Sono i Stagnant Waters, un trio franco-norvegese. Composto veramente male, perché abbiamo nella formazione Svein Atlevik dei Flaherty Street e dei Remsgaard, quindi Norvegia, e Camille Giraud, che non so esattamente da dove venga, dalla Francia naturalmente, e Aymeric Thomas dei Priapism. Cioè un disastro. Hanno fatto da poco un nuovo album intitolato Rifts, loro sono i Stagnant Waters, così si firmano, che fanno post black metal, industrial prog, ditelo voi. Il brano che ascoltiamo è Split and Split, Stagnant Waters. Summersburgo. In questo preciso istante sta a piove, quindi non è che dentro casa c'ho tutto sto caldo, però mi portano sempre un po' di fresco i Farrell Resort, perché fanno insomma un bel post-punk selvaggio, come avete ascoltato da questo loro nuovo singolo Resound. Poi vengono a Copenaghen, Danimarca, che mi porta sempre una sventata di freddo dentro casa, anche se qua dentro è un po' più alto il grado della temperatura. Invece niente, non rinfrescano. Cioè un po' rinfresca, ma sono italiane, le Lilies on Mars, che un tempo si chiamavano Lilies on Mars, ora semplicemente Lily, hanno pubblicato qualche tempo fa un album intitolato Spazio, Da questo album che è prodotto dalla, cioè, da una palla, cioè fondamentalmente mi sono ammazzate mandate dalla Garrincha Dischi, defunta, ahimè, come il suo fondatore Matteo Romagnoli, lo salutiamo ovunque si trovi in questo momento. Ciao Matteo. Ci ha mandato questo singolo che era Tutto e Niente del Lily. Mi sono accorto ora che sono una nuova incarnazione del Lily su Mars. Adesso ci faccio lo svelto, ma ho appena confessato. Quindi ascoltiamo il brano Tutto e Niente delle Lily. E basta! Sono fuori di me, come le stelle. Tolgo la giacca e rimango a guardare. Summer Spurgo. che bella la canzone di una volta. C'erano un tempo questi Sonic Violence che mi cagavo solo io, da Southend-on-Sea, Essex, England, United Kingdom, che fondamentalmente facevano industrial metal, due bassi, due batterie, un macello, metal manco tanto, industrial rock, diciamo così. E me li cagavo veramente solo io. Adesso hanno fatto un singolo, un nuovo EP intitolato Fight, di cui abbiamo ascoltato appunto il brano Fight, col punto esclamativo, e adesso nel 2023 finalmente continuo a cagarmeli solo io. Bene, quindi l'avete ascoltati grazie a Lupo Nero Samespurgo, che è quello che vi propongo e che piace solo a mia, ma neanche, in realtà ci sono delle cose che mi fanno anche cacare, ma ve le faccio ascoltare lo stesso nel nome della democrazia. I Dead Astronauts sono un po' una via di mezzo, dal vivo mi hanno un po' rotto le palle, però il disco devo dire che è carino. Sono una band di synth pop dagli Stati Uniti, capitanata da designer, artista e producer, nonché hipster con la barba da mezzo metro, Jared Kyle Nicholson. Dal loro ultimo album, Ghosts, ascoltiamo il brano finale, che è Over My Body, ed è anche il brano finale di questa puntata di Lupo Nero Samespurgo, e torneremo giovedì prossimo o giù di lì. Ever expanding black hole in my chest won't let me rest. I understand you never wanted to say goodbye, but these phantom limbs keep telling me lies. They tell me lies, but I've been telling the truth. I'll come back for you, I won't leave you behind. I'll come back this time, I've been telling the truth. I'll come back for you, I won't leave you behind. I'll come back this time. No control. Lupon Air Summersburgo. Mi sono scordato una cosa importantissima che fa molto anni 80-90. Miau!